dicendo che è nato per i Midland, praticamente sono i microfoni per l'Alan 48, ma vanno bene per tutti i Midland e per molti altri apparati, capito? Cava cava, andar bene vera, fammelo bidere. Posso parlare, non c'è problema, un nuovo uomo. Cos'è io come ha scatto la roba? Giallisco, la tieni bene tu la roba. E glielo voglio dire questo, catacola, la mia roba è scatto, dove vuoi tornare? Adesso me lo voglio mettere in macchina, che ha, porca miseria. E se ti calenta è nuovo. Hai visto? È nuovo, nuovo. Quello di Daniele era. Oh, quel 68 vecchio, quello lì non lo fanno più già, è il modello vecchio proprio, i primi 68 che erano usciti. Quello era nato con 34 canali e questo è stato l'ho fatto mettere il commutatore a 40. Per il parere di una cosa, chi dà apparecchi lunghi almeno sai che sono lunghi e basta. Già, io di apparecchi diciamo che sono, funzionano tutti bene. L'ho sospeso 50 euro per metterlo a fare quel lavoro al commutatore. Ho detto ma avete in macchina, se invece adesso ho visto che è più di 23 canali, non va. Oh, ti lascio là. Che devo fare roba. Ci sentiamo magari dopo dalla macchina, non lo so, vediamo un po' là. Va bene, dai, ok Gianni. Ragazzi. Io guardo Moto 5. Ascoltate Cavallino Zampante, che bello. Attenzione, binario 45esimo. Ascoltate il cavallino bene di piombo, la carità. Ciao Rita. Mago, puoi anche scrivere? Mago, ci senti? Mago, ci senti? Allora, poi non vedi? Va bene, Lucaria. Cosa stai facendo? Come esposizione, come coso. Io qua, togliendo queste qua, dopo non faccio più niente, altro. Oh, forse le vedo tutto. Tutto, ma quelle radio vecchie le acquisti nuove, lo davo il vanno. Venderò tutto, poi se Dio vuole, il prossimo anno, avrò la patente e mi rifarò tutta la stazione nuova. Ma non ti piace più? Ah, a noi non mi piace più, non c'è più nessuno, tu, capito? Io fermo via da 27, capito? Oh, no, fra, se lo vendremmo nel manca a vendare, a fare radio, cioè, cosa, cioè, è logico che non c'è mai nessuno. Non vedi più, adesso la sera, guarda, accende, non c'è mai nessuno. E accende, ascolta, non c'è mai nessuno, è diventata morta questa frequenza, oramai, è tutto, non questa storia del computer, adesso, diciamo, le radio le hanno un po' abbandonato un po' tutti. Fra, la radio è una cosa, il computer è un'altra cosa. Lo so, ma non tutti la pensavano la due, sei tu. Allora c'è quello che gli piace più il computer, non gli piace la radio, c'è quello che gli piace più la radio, non gli piace il computer, capito? Ragazza, fra, secondo me ci vorrebbe un po' di più buona volontà e quando si ha un po' di tempo farsi sentire, com'è che la radio si fa? Ma io vado a fare qualcosa, la sera accendo ogni tanto, io sono trovato con la chiacchierata, tanto non più o meno, capito? Ragazza, lo so, bravo. Infatti, no, a me già la verità, mi fa sempre piacere quando c'è la gente, perché c'è, perché per me è una cosa bella. A me mi è sempre piaciuta la radio, non è che non mi piace. No, a me, pure a me mi è sempre piaciuta la radio. Io dico la verità, sono giovane, ho 24 anni, però il computer non è top, lo so maneggiare un po', ma non me ne interessa più di tanto. Purtroppo è così, io già mi piace ogni tanto accenderlo, guardare, però non è che ci traffico molto il computer, non ti credo, ma qualche volta vado su eBay, radio, riviste, roba così, riviste radioamatoriali, tavola roba, tutti quei siti, tutti un po' giro un po' tutto, Ragazza, stavo pensando, ma poi se ti prendi la patente radioamatoriale la 27 non la tieni più, la tieni sempre. La tengo, ascolterò anche lì, io non la tengo, ascolterò anche lì, farò attività sulle frequenze radioamatoriali e poi ascolto anche sugli 11 metri, non è quello il problema. Ragazza, ma io guarda, non ci trovo nessuna vergogna, molti non entrano, cioè, per me è una cosa come un'altra. Non ha neanche senso. E che molti, tanti radioamatori non entrano. Vabbè, non entrano perché vanno a operare sulle altre frequenze. Vanno a operare sulle altre canali, sulle altre frequenze, stanno DSL e tutte quelle cose lì, capito? Sì, lo so. Ma ho visto che qualcuno ogni tanto si affaccia, gli fa piacere sentire vecchi amici. E scappa. A certo che sì. Vabbè, ecco una cosa bella, Troppa roba. Lei ascoltò tutte le frequenze della bandiera della natura. Ascolto sempre. Io quando non sono in 27, che non mi sentite, sto ascoltando sempre quelle frequenze lì. Già me lo immagino. Cantando sta. Ho questo computer. Infatti si è sentito che stava cantando. Bravo, quanto sta arrivando? Ha passato. Poi tre prova. Sta arrivando bene, 9 più quasi 9.35, sì. Ragazza, sei in macchina? Via. Però c'è zona alta. Zona alta, sì. Dovresti essere più o meno nella zona di Via Baldetta. Diciamo di sì, dai. Sono vicino a te, dai. Capo, io col monitor ti vedo, mi ti stai sforzando. Sono a fondo scala, fra. E non proprio a fondo scala, ma quasi. Ragazza, va bene. Io, per carità. Eccoci, stai ancora preparando, così. Sta sempre pure, tu, sempre pure da una parte all'altra. Ma non sai che quella locanda ha chiuso, non l'ha preso altro un gestione. Voi siete andati a fare la cucina? Io non sono andato. Quella locanda? Degli effetti. Bucaccione. Mamma mia, Adesso mi siamo rinnovato tutto il locale, ma l'ha preso un altro in gestione. Devo prenderci la bombola, ma no, non ce l'ha miliardi. Un altro in gestione, ma non ce l'ha più lui. No, non ce l'ha più, no. Però deve essere che l'ha mollato, o l'ha dato in gestione a qualche altro. Sto un casino della cucina, tu. Dobbiamo fare i soldi a ripararle con la cucina. Ma questa roba vecchia e poi non è pulita come locale, la verità, no. Non mi piace niente. E capo, se l'hanno fatto tutto, non è dovuto tornare a fare il nuovo. Sul minimo ci hanno messo un meme. Carezzai. Ma non è che la cucina non ha cambiato. Tu non ci sei più andato. Io sono andato che non ci vado a verità cinica, Non ci sono più andato, immediatamente l'hanno dato in mano a fare qualcun altro. L'hanno dato in mano. Perché dovevo comprare il bombola a lui, però adesso non so se sentiamo quello da prendere, non lo so questo. Ma dobbiamo portargliele noi, ma non dico un altro che gli sta portando. Non lo so. E certo, visto così. Prendi la bandiera, oggi chiama te, domani ne chiama un altro, poi domani ne chiama un altro ancora, capisci? Sta sempre cambiando. Sto sempre cambiando come noi, ci sono quei clienti che sono sempre felici, mi sono chiesti che sto cagando a bere. Quanto è la bombola da cui a tu? Troppo, e tu ti dai anche fastidio, ti danno molti, perché se non lo chiamano a te, non lo chiamano all'altro, se non se li comprende mai nulla. Dice ella. Ma è un braccio, cioè tu... Mi sembra cambiando il mondo per comprare questa gente. Purtroppo è così. Magari quello gli fa prezzo di mano, magari anche 20 centesimi in mano, è un'ipotesi. Per dei clienti per quel motivo lui, capito? Cava, e quello lì lo sai cosa avviene, soprattutto con gli studenti, che sto, uno non se ne comprende con l'altro, uno chiama a Ghibli, uno chiama all'altro. Succede così. Eia, è definitivo sì. Allora, Pierpaolo, Pierpaolo non ho più sentito, Non hai sentito poco fa. Poco fa quando stavamo salendo, cioè, quando eravamo in giro. No, mi sembrava che lo stavo chiamando, e poi mi hai risposto tu. Era vecchiaia e caroglia. E mi hai anche salutato. Pierpaolo, adesso ti ho sentito, vedi? Eia, mi hai salutato, però, mi hai anche risposto. Ma qualcosa, la voce tua per farlo a quella di Antonio, ce l'avete uguali. Infatti anche stasera, quando stavo parlando, mi hai detto Antonio di nuovo, invece ero sempre io. Infatti me l'hai immaginato, hai detto. Ce l'hai tu, invece di tu. No, vieni con me come lo fa vedere. Infatti hai detto Antonio, mi sono detto adesso perché ha capito che sia Antonio. E infatti, ce l'avete la voce precisa. Insomma, non sai, a me è più grossa. Cambia un po' la timbrica, vedi? Non di moto, a volte ti confondi. Non sai cosa è. Se sei a darci un po' più spesso, magari non ti confondo, magari con un altro microfono diverso. Perché il microfono è uguale, hai capito perché ti confondi? Però c'è la differenza, Io da sicuramente sono toccato a fare i baracchini, cioè volevo robe di tempo che non stavo piacendo niente. Infatti a volte non funzionano problemi sul microfono, a volte deve essere la polvere, come rimangono fermi, capito? Ma quei problemi lì. Io se ne so, ma no, sai quanti succede che ci scambiano, molte volte parlo io e sono convinto di parlare con Antonio. E allora mi sono messo a convinto, vi lascio parlare così. Aia, pagava. Tanto la fa venuta, gli è tutto in famiglia. Beh, ho sentito Antonio con 68 l'altro giorno. Antonio con 68? Col 48? Ah, il 68, vedo mio, ve lo sto usando io. Ah, andava bene. Che bella radio, eh. Cappa, sì sì, va veramente bene, va. C'è bene, quando me la porto in macchina tu? Mettila in macchina. Io due, ma sono omologato tutti e due, c'è il Tornado, il 34 che è omologato e il 68 che è omologato lo stesso. L'ala 68 è tu, il 144, il 44, il 40 canale. Perché di solito tu trovi persone, li trovi dal 23 al 24, dal 23 al 5, al 10, 15, nel 40 non c'è mai nessuno. No, fidati, fidati. C'è, lo fa paura. Fa paura. Ma Falcone. Cazzo di America non modulare, ha parlato Falcone. Già lo so, già. No, comunque ci sono i campagnoli, no? Vabbè, ma diciamo che vado alla percento, sono tutti o sul 10 o sul 21 o sul 25, lo puoi trovare sul 30, sul 35. Ma il 40 raramente trovi gente, perlomeno non trovo mai nessuno. Ma gaffa, sul 45 c'è molta gente. Ah, mi abbasso le voci, ti sento anche qua. Sul 45 ci fanno di gente, certo. Si sta cantando. Sta cantando. Vabbè, adesso vado a prendere una bella sigaretta a fumarla. Ah, va. Buonasera, signora, se mi sente. Papi e Paolo. Oh, sono Antonio. No. Potrà cambiare più saluti, Antonio. Ma si è confusa anche lei. Adesso quando ho il computer. No. Comunque le mando saluti, già mi ha sentito. Ciao Antonio, salutoni. Brava, salutoni anche a lei. Adesso questa carta è salutata anche da parte sua. Brava, anche a Pierpaolo. A Luca. E Gianni, Gianni. Eia. Perché non risponde, ma la sopra raffreddata, sì. No, me la sto fumando. Posso anche di 9 a 20. quando sul più. Vabbè. Sempre una meraviglia, cara. E so che non bella, va, che non faccio manutenzione più a niente. Ehi, ora. Però quando la cosa andava bene, per poco di va. Pure quando li fai bene, risultano bene, capito? Cava, ti dura 20 anni, cara. Ti faccio sentire quella 68, a vedere come va. Cava. Vai, trovalo ora, a vedere come va. Ecco. Andi in brecco. Buonasera, Antonio. Buonasera, Cristian. Ma qualcuno ci uccide un quadrato ancora? Quadrato? Ancora no. Vedo un pastorazzo con le luci blu. Qua c'è anche una punta bianca con l'assetto da terra da 5 centimetri. Ancora non la vedo. Che non conosco chi è. Ecco, Antonio, mi assurdi, cara. Forse è chiaro qua. Hai un quadro da disegnare in Santiago. Adesso un po' più basso, ora, 9:10. Vabbè, la radio con me, va bene. Va benissimo, c'è una bomba ai lombi. Attacca. Ok, aspetta. Quanto sono, non tu? Una bomba sta giù. 2, 3, olla. Così. Va bene, dai. Vabbè, ma devi considerare che io sono lontano da te. E per essere ammanciato, ho un buco da scoprire, dai. La voglia, poi la mano va, esce dappertutto, arriva dappertutto. Dopo un buco ammanciato, proprio un buco, eh. Mentre aiuta. Per uscire bene a sassi, deve avere almeno 10 metri di palo sotto la mantova. Ma guarda, c'è un amico che ogni tanto entra, non so se l'ha mai sentito, Daniele, che è peggio di te, cioè come te, è attorniato di palazzi e c'ha il coso basso, cioè, eppure ci roma adesso, intendo il mio arrugo, la casa è bassa. Palazzi non ne ho, però un po' di montagnetta faccio a me. Cava, non vuol dire niente, no? Però già c'è bene la moto, ma dai, no, posso dire niente. Ma me l'ho cantato. Sì, la meraviglia, sì. Me l'ho cantato male. Lo stavo ascoltando, Luca. Beh, da te lo già dice. Ah, no, so, c'ho le cuffie, perché sennò metto lì, capito? Vabbè, là. Mi chiedo lo spinotto, lo compro lo spinotto stereo per saldare. È rotto. Spinotto stereo. Cioè, mo è stereo, ma è uno stereo. Mi pare che l'avevo io uno. Poi lo devo curare i cuffi provvisoriamente e poi lunedì me lo compro. Ma bravo Luca. Figlia. Mia. Ah, con sempre bene esci. Sì. Sei da solito, quella radio meravigliosa, sempre. Sì, sempre bene. Ecco quando esco bene, certe volte esco male. Fare aggiornate, capito, figlio? Ah, non si dimentichi di impegno, ti fa una stazione come Dio comanda. E a tutti gli spacchi della costolina. E non è più buio, no, figlio. Mi pare ci butto via tutto perché mi sto stufando in queste cose. C'è anche Antonio, sei già stancato. Che avevamo mollato un milione di anni fa, poi entrato in mano torna verso 68 e mi sono rimesso da lì e ho cominciato a tornare di nuovo. C'è molto conservato perché mi interessava più, capito? Io ce l'avevo giù l'apparato a casa mia, lo mettevo giù a nuvolo, ce l'avevo. Mi sono trascato, tutto venduto, non te ne apparato pure. È così, capito? Non c'è più niente, Cristi, hai capito? Non c'è più nessuno in questa frequenza, in questi 11 metri. Ma tre gatti, quattro gatti. Ma sono 80, io sono venduto. Da quando c'è l'era del computer, la gente ha mollato ancora gli 11 metri, li ha abbandonati tutti, capito? Lì, va. Purtroppo il computer è bello, ma non è che facciamo il computer, non è che sono fatto il computer neanche io, no? Non è che ci perdi qualcos'altro. Io invece sono andato a chiamare al baracchino. Ecco, volevo provare un vecchio apparecchio americano, Cristian. Cioè, è soffitta. Apparecchio americano, ecco, lo faccio sentire, un Cobra, un 89 GTL. Ma non mi sento, lo conosco il Cobra, qual è? Usci. non lo ricordo qual è il Cobra, l'ho già visto da qualche parte, però io lo conosco qual è. Faccio sentire con la radio lì come esce. Ma la prova, è meglio tu, nessuno si è schiantato ancora. Non ho riuscito a sentire Angelino che sta chiamando. Angelino, mi senti? Sì, a voglia che ti senta. Buonasera che ti senta. A bomba, la radio è super forte, ah, va. Finalmente, ma mi senti molto forte lì ad Alghero. Santiago 7, ma la radio è super 5, capito? Stiamo a farmi un paio di passaggi. 1-2-3, prova radio, 1-2-3, prova radio. E di 7, ma la radio è super 5, cioè, bella, chiara e forte. Che ti vuole Gianni? Non vado. Ha letto, vedo che ormai non ci vedi, Mattia. Cosa ci fai in BBB, no? Sono i banchi di Loghi, Loghi, Lidi. Che sabato, Angelino. Cappa del raggio, andiamo bene. No, mi sto preparando la cassettina, vediamo. Sono arrivato a tardi, mio padre ha chiuso il garage, ho rinforzato.